Benvenuti a Dedicato! Allora, questo mercoledì abbiamo con noi i ragazzi del laboratorio Voice on Air. È il corso avanzato, quindi questi sono ragazzi bravi, esperti, mica storie. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Sono in tre e sono veramente una potenza, devo dire, quest'anno. Sono con noi perché cos'è Voice on Air? Voice on Air è un corso che propone Radio Città Fujiko da molti anni, dove andiamo ad affrontare il lavoro che fa lo speaker in radio, quindi praticamente loro vorrebbero rubarmi il mestiere. Ve lo scordate, mi dire che ridiate, perché no. Però effettivamente sono bravini, cioè non so se preoccuparmi o essere felice, dato che sono la loro insegnante, ma hanno iniziato già la prima lezione a portarmi dei contenuti e hanno registrato delle cose di loro pensiero, proprio di loro scelta, su una tematica che ha insomma una sorta di filo conduttore, che è le storie del nostro paese, quindi della nostra Italia, che vabbè, è così, no? Un po' sì, un po' no, ragazzi, cosa dite? Allora, legato al problema dell'Italia, io stavo pensando che uno dei problemi dell'Italia, ma in questo momento è focalizzato alla mia mattinata che sarà domani, è che molti miei studenti, e scusate, è vero, fanno fatica incredibile legata alla comprensione del testo, Questo è un mio pensiero legato all'Italia. Poi nel passato, sicuramente fino agli anni 90, avevamo altri problemi, che okay, non erano questi. Però è un mio pensiero che mi è venuto in mente in questo preciso momento. Chiedo perdono per questa intromissione. Ciao, sono Stefano Manfredi. Ciao, bellissimi. Ciao, ciao, ciao. Molto bene. Quindi, comprensione del testo. Sì, ho una problematica. Ho una classe con che due è legata o tre, al tuo lavoro, appunto. Che è legata al mio lavoro. Che io, il mio lavoro è entrare nelle classi, fare domande e uscire. Ah, ok. È proprio così. La regione Emilia-Romagna mi paga per questo. È molto interessante. Passo in tante città, domani sarò a San Giovanni dalle 8:15 alle 10:15. A fare domande. Ok. Posso aggiungere qualcosa? Anch'io faccio qualcosa di simile al tuo lavoro che dovrebbe riguardare l'insegnamento, e non è tanto il problema della comprensione del testo, hai detto. Io ho detto del testo. Secondo me è proprio un problema di comprensione dell'italiano stesso a volte, cioè un problema dell'Italia è il problema della comprensione dell'italiano, cioè no, si parla tanto anche di analfabetismo funzionale, ma anche analfabetismo e basta. Che ecco, il 30% delle persone a livello nazionale, in teoria della popolazione, è analfabeta funzionale, da quello che mi ricordo. Si dice. Io non so bene cosa voglia dire esattamente, però quando vado io in classe, avrei degli esempi. Quando entro in una classe capisco bene anche subito cosa vuol dire. Okay. Spesso no, siamo costretti ad abbassare il tiro e abbassare il livello anche delle consegne a livelli preistorici, non so quindi come. Non lanci più il sasso in faccia, ma nei garetti. Non lo so. Garetti. Ok. No, vabbè, però così insomma non aiutiamo l'analfabetismo, lo sterminiamo. Cioè... Sì, beh, è una possibilità di risoluzione. Ok, bisogna vedere da dove proviene questo analfabetismo, perché sicuramente da una sottocultura e da un... si sono abbassati i livelli culturali, no? Quindi io ho un'idea. Io vedo la faccia di Stefano qua. Io ho un'idea. È perché gli analfabeti funzionali sono comunque in una relazione di coppia. Secondo me, se tu fossi single, o comunque una persona fosse single, questo problema non si pone, perché non parli la sera con un'altra persona, sei dentro di te, quindi magari hai più tempo per leggere, hai più tempo per guardare la TV, certo, però guardare certi tipi di programmi. Bravissimo, e qua ci colleghiamo alla nostra terza voce e partecipante del corso Voice on Air, che è Cristiana, che ancora non ha proferito parola, ma... Adesso, oltre a salutarci, manderemo subito il suo audio. Perché? Perché proprio di questo parla. Se tu vuoi vivere bene e fino a una certa età, arrivi a capire che devi stare da solo. E questo è il suo contributo, quindi ciao Cristiana. Ciao, intanto, ciao. Sono Cristiana, non sono un insegnante, ho una buona comprensione del testo, però faccio fatica un po' a comprendere la società. Detto questo, ovviamente ringrazio per il gancio e mi associo all'idea che, a parte la longevità dell'Emilia Romagna, si sta molto bene da single, secondo me, cioè proprio si vive bene e ci sono i dati Istat che lo confermano. A mio favore posso dire questo. Perfetto, quindi agevoliamo il tuo contributo audio. Oggi parleremo di single, di amore e di dati. No, non mi riferisco alle app di dating, ma all'ultimo report Istat. Parrebbe infatti che in Italia i centenari dal 1 gennaio del 2025 siano 23.548, 2.000 in più rispetto al 2024. E tra loro le donne dominano con un impressionante 82,6%, che aumenta al 91% nella fascia di età che parte dai 105 anni in su. Vi starete chiedendo dove si viva meglio. Allora, in Italia, in termini assoluti, primeggia la Lombardia, con quasi 4.000 centenari, seguita da Lazio e Emilia-Romagna. Siamo anche noi sul podio, entrambe oltre i 2.000. Ma concentriamoci sulle cose importanti. Che in questa corsa alla longevità le donne vincano a mani basse non ci sorprende. Ma qual è il... Ma c'è qualcosa, secondo me, di singolare, e ripeto, singolare, che mi sembra doveroso approfondire. Ovviamente non abbiamo la certezza, ma pare che il segreto dell'elisir di lunga vita sia arrivare a quell'età, appunto, single o vedovi. Infatti, chi supera i 105 anni quasi sempre non ha più un partner accanto. Solo l'1% delle donne ultralongeve risulta ancora sposata, contro il 14% degli uomini. Coincidenze? Che si parli comunque di ultracentenari e non. Il vero elisir di lunga vita è, a questo punto, la vita sana, la vita lenta e anche, perché no, la vita da single. Bene ragazzi, adesso siamo alla scelta musicale della Cri. Cri, allora, parliamone. Siamo a Bologna e quindi la mia scelta ricade assolutamente su Luca Carboni. Che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli, noi no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, nemmeno quelle più belle. Le commesse dei negozi del centro, quelle vivono a mezze giornate, no che non sono le fate. Noi ladri di 1.000 lire, cercando il modo per non morire, per non pagare le tasse, per far passare la notte. Ogni tanto parliamo d'amore, magari fuori c'è sole, o che magari piove. Rio, Mario, oh oh. Poi facciamo le fusa, proprio come dei gatti, e come i gatti dentro i giorni e le notti, noi ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi, e poi facciamo l'amore, sì sì facciamo l'amore, e ogni tanto ci facciamo del male. ogni tanto è normale. Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi portare lontano. Vedi che bella la vita, basta andare più piano. Magari dimmi come vivono gli angeli, dimmi le fate, o se li hai mai incontrati. Grande Cri, grande, quindi cioè quello che tu ci hai appena detto è intanto che ci sono un sacco di persone centenarie in Italia, ma soprattutto a Bologna anche. A Bologna anche, esatto, e soprattutto che sono single per arrivare all'obiettivo dei 100 anni. Questa rincuora un po' da un certo punto di vista, ma fa anche riflettere, sì, no? Forse non tutte per scelta, però se lo avessero saputo, secondo me, se avessero letto, certo, questi dati oggi, avrebbero sicuramente, certo, certo, optato per un piano B. Quindi da domani un sacco di coppie separate perché vogliono arrivare a tutti i 100 anni. Sì, sì. Dopo che hanno ascoltato Radio Città Fuggita. A causa sua, certo, non delle coppie devastate dalla radio Fuggita. Questa è l'Istat comunque, cioè... È l'Istat, cioè, è l'Istat, cioè, esatto, l'Istat. Sì, sì, è che stavo l'Istat. Appunto pensando, a proposito di coppie, che i miei genitori, secondo me, rappresentano una, ma è un mio parere personale, una delle poche coppie che stavano veramente bene perché erano innamorati. Tant'è che per amore, mio padre, nel 1996, ed è un bagno che funziona ancora, dovette rimanere a casa dalle vacanze perché il bagno si era distrutto. E quindi noi siamo rimasti tre settimane in più a Bellaregia Marina, e lui per amore, perché gli piaceva un sacco il mare, ma è rimasto in quelli Formigine ad agosto, no scusate, fine luglio, però nella caldazza emiliana, e questo secondo me è un piccolo gesto d'amore, cioè nel senso io vedo tante coppie che crollano, ma i miei genitori erano proprio belli. Cioè, scusa, io so tutto, no? Ste, adesso parliamoci chiaro. Io so perché tu hai detto questa cosa e assolutamente so dove stai andando a parare, ma tu pensa se un nostro ascoltatore dice ma che cazzo c'entra questo? No, c'è, no, che c'è. L'amore è perché suo papà ha rifatto il bagno nel 1996. Mi sembra un gancio un po' esagerato. No, cioè, chiaramente l'ho presa non lunga, larga. Salutiamo il papà, come si chiama? Giovanni, ciao, no, Giovanni, Giovanni, ciao papà. Il ristrutturatore di Cessi. No, che tra l'altro, no, restauratore di mobili mio padre, comunque c'è, cioè, comunque la manualità. Certo. Non ho preso niente, però ho preso tutto da mia madre. Tutto, come può fare un ascoltatore a capire che... tuo papà amava così tanto la tua mamma perché nel 1996 ha rifatto il bagno in pieno luglio? Se posso intromettermi, innanzitutto perché la vita lenta è probabilmente la vita in Romagna. Quindi se noi colleghiamo l'Emilia Romagna, l'estate, il fatto di godersi comunque il mare, già che il papà li manda in serenity al mare, posto dire bravo Giovanni, questo bravo. È proprio amore. Quindi tu hai detto che eri lì insieme alla mamma da solo, però, giusto? No, non ero da solo, ero in un hotel meraviglioso, okay, che era l'Hotel San Marco, quindi è una grande famiglia, anche quella è una grande famiglia, e ci fu dei ricordi meravigliosi legati all'Hotel San Marco, al bagno Nando 13. Su quel divano a vedere una partita di calcio, la finale tra Repubblica Ceca e Germania del 1996, il mitico e meraviglioso stadio di Wembley. Ora andiamo a ascoltare il tuo contributo, perché sennò lo riraccontiamo da capo. Hai ragione. Secondo me mandiamo il contributo audio di Stefano. Avevo 8 anni e quella sera d'estate del 1996 la ricordo come se fosse ora. Mi trovavo in villeggiatura, all'hotel San Marco di Bellareggio Marina, insieme a mia mamma. Mi trovavo seduto su un divano enorme, con accanto persone di varie nazionalità, un mix tra svizzeri, tedeschi e lombardi. Ma la mia attenzione e lo sguardo erano rivolti esclusivamente alla televisione. Rai 1 stava trasmettendo la finale di Euro 96, Repubblica Ceca contro Germania, che si stava disputando nel leggendario stadio di Wembley di Londra. Io non capivo ancora tutte le regole legate a questo sport, ma captavo un'atmosfera e un'elettricità nell'aria, e quella tensione che contagia anche i bambini. La partita era tiratissima e combattutissima, e ad un certo punto ci fu una decisione dell'arbitro italiano Peretti, alla sua ultima direzione del direttore di gara, che fece incazzare mezza sala. Rigore contro la Germania, il problema era solo uno, il fallo era stato commesso fuori area. Io sul momento non capii bene la svista, ma sentivo che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Poi, come in un film, l'allenatore della Germania decise di far entrare dalla panchina Oliver Bierhoff, attaccante dell'Udinese. Incredibilmente, dopo pochi minuti pareggiò e poi segnò un gol alla fine del primo tempo supplementare, che decise la finale. La sala esplose, qualcuno rovesciò una bibita per terra addirittura, e io avevo gli occhi spalancati. Era la prima volta che vivevo un momento così importante dal punto di vista sportivo in diretta. Ero felice, felice di essere al mare, a vivere quell'atmosfera e quell'emozione lontano da casa, con la brezza salmastra che entrava dalla finestra aperta. Però, dentro di me, c'era anche un piccolo dispiacere. Papà era rimasto in quel di Formigine a sistemare il bagno rotto e non aveva potuto essere lì con me. Pensavo a lui mentre guardavo tutti esultare e mi dicevo che gli sarebbe piaciuto vedere quella partita accanto a me. E così, tra il rumore delle onde e quelle della TV, quella sera è rimasta scolpita nella memoria come se fosse come uno dei primi veri ricordi di calcio d'estate. Grazie Stefano, finalmente abbiamo capito perché i tuoi genitori nel 1996 si amavano così tanto. Perché tuo papà. Neanche mia madre mi chiama Stefano. Oh, vabbè, io non sono tua madre, ma adesso. Manfro. Vabbè, ciao Manfro. È il tuo nome di battaglia, il nome dei creditori. Del contenuto. La comprensione del contenuto, ragazzi, attenzione. È fondamentale. Allora, Cristiana, come vuoi essere chiamata? No, ma io ti aiutavo perché io sono contro Stefano. Ma come? Tu sei, ok, non avevo capito l'alleanza. Va bene. Mi ero persa un'alleanza. Si era già creato, la conosco da 4 ore nella mia vita, è la terza ora nella mia vita che la conosco. Ma noi siamo donne? Sì, la Sabrina Salerno. No. Sì. Sì, era Sabrina Salerno, ma io non sono Sabrina Salerno. Ma la cantava Sabrina Salerno, che secondo me l'ho vista in Verboso una volta. Hai visto questa non si può sentire. Allora, dovete sapere che il prossimo intervento di Kempa, che è un intervento meraviglioso perché ci ha portato questo intervento audio veramente molto interessante su una strada della nostra città, della nostra Bologna, che è per l'appunto via Erbosa. Allora, adesso che Manfro mi venga a dire ho sentito Sabrina Salerno in via Erbosa per lanciare l'intervento audio di Kempa, no, questa te la bocciamo. Amava quella via, tutti i giorni, silenziosamente. Era una via con un nome solo, ma in realtà divisa in 3 parti, essenzialmente molto diverse. La prima si chiamava Erbosa, ma era solo case e palazzi. La seconda, passato un vecchio arco di un passaggio a livello, era via Erbosa Boscosa. Sembrava di essere a chilometri di distanza da Bologna, in qualche boschetto superstite della pianura padana, se si eccettua la rete arancione che delimitava il vecchio campo Sinti e il gigatraliccio dell'alta tensione. Assieme agli occhi era la pelle ad avvertire questo cambio repentino. Il crollo della temperatura, il fresco, l'umidità e l'ombra di maggiociondoli, ortiche, edera e robinie che si incurvavano su chi passeggiava. Forse questo sbalzo di temperatura era anche causato dalla bolla dei 3 terrapieni ferroviari che circondavano questa seconda parte di via Erbosa. Andando dritto, oltre il secondo passaggio a livello, decorato da scritte no passante, si accedeva alla via Erbosa davvero erbosa, con gli ultimi relitti di campi tenuti a maggese e, non si sa per quale motivo, non ancora speculati dal partito unico del cemento. Una volta Edo, durante un evento organizzato dal collettivo No Passante, aveva pure visto un contadino sul suo vecchio 250 Fiat, intento ad arare un campetto a lato della tangenziale. «Ma lei cosa ne pensa del passante?» «Ah, caro mio, non vedo l'ora di vendere. Sta terra non vale nulla, Nazi Daint. Se me la compra un immobiliare, almeno mi frutta qualcosa.» La via erbosa boscosa, la seconda parte, era un triangolo, come detto, delimitato dai tre terrapieni di tre ferrovie, un raccordo delimitante, una terra poco appetibile dagli imprenditori, per metà incolti e per metà orti dei Vez, riserva indiana in salsa bolognese, dove i nativi passavano il tempo a litigare. Ok, allora, Kempa, grazie per questo contributo, però mi viene una domanda interessante, cioè perché via erbosa? Cioè, perché questa strada, che a me oltretutto piace moltissimo e conosco bene, ma perché partiamo da via erbosa e non sei invece andato, che so, in via di Corticelle, via Ferrarese, via Irnerio, o qualunque altra strada della città? Ma a parte che prima si diceva, no, la vita lente, tutto, secondo me via erbosa rappresenta un po' in Bolognina e anche a Bologna un esempio di vita lenta, cioè è geograficamente una strada che rappresenta un modo di vivere, no? Perché ci sono appunto gli orti degli anziani, ci sono appunto i campi ancora incolti, quindi rappresenta un po' anche il vivere lento, ma rappresenta anche un po' quello che la speculazione edilizia non si è ancora presa di Bologna, cioè okay, la terra, e lì c'è un piccolo esempio di quello che cresce anche incolto, quindi senza che l'uomo ci metta più mano. Poi c'era un campo Sinti, che ora è una distesa abbandonata. Comunque è una zona che mi piace davvero tanto e ci vado sempre perché ho l'orto anch'io là. Grande, grande. Quindi partiamo dalla terra e dalla natura. Ottimo. Beh, comunque dai, dovevi presentare la tua canzone. Io vai, volevo. Dai, io, canzone. No, è una canzone che mi è venuta in mente perché la sentivo nel bagno Nando del 96, che era una canzone che adesso è diventata un hit mondiale dell'Os del Rio, La Macarena. È nata lì, nel bagno Nando. Esatto. Nel bagno Nando insieme a Manfro. Ma il problema qual è? Che io ho chiesto ai ragazzi di scegliere un brano musicale e lui ha ben pensato di scegliere la canzone dell'Os del Rio, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. Kempa che intanto manda in alto mare di... In alto mare di Lorda per te. Grazie. Schiavo nella fantasia, pietre verdi di Bahia. così. Perché noi viviamo qui tra rumori di una via, tra pillotti, farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci tanto male. Infatti basta, chiudiamo questa puntata perché Bagnonando ha creato dei problemi e invece noi fanciulle, come vedete, andiamo tutte a Salerno. Noi siamo tutte d'accordo, andiamo a Salerno da Sabrina. E invece i maschi stanno facendo rissa, i maschi, perché qua cioè, Bagnonando, dice Marina, Bellaria. Oh bro, come sei messo? Bene, questo è Voice on Air 2025-2026, corso avanzato. Noi vi salutiamo, chiudiamo questa puntata nel migliore dei modi con un bel ciao, saluti, baci, abbracci, senza fare risse, ciao. E senza dare brutti esempi ai nostri adolescenti che in ci ascoltano. Mare. Ciao mascotte! Sono in alto mare perché domani prendo 5. Ma non è vero mascotte, la smetta! Domani è sabato, ma dettagli! Ma domani è giovedì mascotte, ma va bene, è uguale! Domani è giovedì, ragazzi. Qua c'è ma poca comprensione del testo. Siamo confusi. No, guarda, la Cris, scusi, no, c'è poca comprensione. Cinque Relo, io posso dire, voglio nomi e cognomi. Nomi e cognomi, te li do io, te li do, ce li ho, però voglio dire, non è questione di, oh, ma che siamo in classe qua, che facciamo tutte le chiacchiere, io devo fare la prof. No, allora la questione è questa, non è scarsa comprensione del testo, è scarsa comprensione. Punto. Ok, quindi domani è giovedì e noi vi salutiamo. Ci risentiamo la settimana prossima. Allora, vi auguro un buon pomeriggio. Mercoledì prossimo. Ci sentiamo su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Hai valori come me, a chi non sono mai piaciuta. E chi non ha incontrato e chi sa mai perché? Abbiamo 50 anni, portati con rispetto, se ti abbonerai la radio guadagni. Era un fumetto che racconta un po' di storie, non certo ordinarie, di Città Fujiko, una radio comunitaria. Scopri come abbonarti su www.radiocittafushiko.it/abbonamenti.